Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata speciale del cacciatore di libri estate, vi parlo della spagnola più amata dalle italiane e forse dall'italiano più amato dagli italiani. Insomma, un gioco di parole per dire che in questa puntata parliamo di Clara Sanchez e Antonio Manzini. Allora, partiamo con Clara Sanchez. Dicevamo, è la scrittrice spagnola più amata soprattutto dalle lettrici donne italiane. Il suo bestseller, lo ricordiamo, Il profumo delle foglie di limone. Nell'ultimo anno è stato pubblicato in Italia per Garzanti La meraviglia degli anni imperfetti. È ambientato a Madrid. Il protagonista è un sedicenne, Fran, che vuole fuggire da casa sua, da sua madre, che di fatto non si è mai occupata di lui. Fran ha un caro amico ed è innamorato della sorella di questo amico. Dopo però alcuni anni, questa Tania, la sorella dell'amico, si sposa con un uomo dal passato piuttosto oscuro, e qui diciamo il romanzo si tinge un po' di giallo. Fran dovrà fare un po' l'investigatore, mettiamola così. Di fatto però questo romanzo, La meraviglia degli anni imperfetti, è soprattutto un romanzo sull'adolescenza. Perché ha scelto un adolescente come protagonista ce lo spiega la stessa Clara Sanchez. Bueno, quiero decir que estoy encantada de estar aquí otra vez. Muchas gracias, Alessandra. Beh, in primo luogo voglio dire che sono davvero entusiasta e felicissima di essere qua ancora una volta. Infinite grazie, Alessandra, per le tue parole di presentazione. Quando mi dici che sono l'autrice più amata in Italia, cosa posso dire? È una carezza per il mio cuore che mi scoppia di gioia, perché amo tantissimo l'Italia, il pubblico italiano, al quale mando da qui un bacio. Diciamo che questo romanzo nasce da una sensazione molto mia, molto personale, che è presente in tutti i miei romanzi, se ci fai caso, e che l'adolescenza non finisce mai in realtà. Non raggiungiamo mai un livello di maturità assoluto dal quale possiamo guardare indietro e dire beh, ormai ho imparato tutto quello che c'è da sapere. Io penso che fino a quando non passiamo a miglior vita, che disgraziatamente tocca a tutti, prima o poi continuiamo a cambiare, continuiamo a imparare cose nuove, continuiamo, se siamo fortunati, ad innamorarci e soprattutto a crescere. Quindi quello che succede a Fran nel romanzo è quello che succede a tutti noi, io credo. Lo che le succede a Fran in pocos años e di una maniera molto intensa è lo che nos sta succedendo a todos, toda nostra vita. Nei tuoi romanzi ci sono delle caratteristiche un po' comuni, c'è appunto questo affrontare la vita, dover superare degli ostacoli, ci sono sempre i sentimenti, l'emotività dei personaggi, c'è anche spesso un mistero che va risolto. Queste sono un po', come dire, le tue caratteristiche fisse dei tuoi romanzi, i tuoi punti, diciamo, fermi della tua narrazione. Sì, perché claro, la vita è misteriosa. Sì, è proprio così. Del resto, la vita in quanto tale è un mistero, le persone costituiscono un mistero. Ovviamente non possiamo entrare nelle loro menti per sapere che cosa racchiudono, che cosa pensano, quali sono i loro sogni. Quindi la vita è interessante e attraente proprio per questo motivo, perché il mistero va scoperto poco a poco. In qualche modo io credo che questo concetto sia ben rappresentato da un quadro di Velázquez, che non so quanti conosceranno, Las Meninas, dove, se fate mente locale, sullo sfondo c'è una porta socchiusa e sta a noi decidere se avvicinarci a quella porta, attraversarla, vedere cosa c'è dietro, oppure capire chi ci sta guardando da quella porta socchiusa. Io amo davvero mettere questa sensazione di necessità o voglia di scoprire un mistero in tutti i miei romanzi. Io penso che non ci siano vite più emozionanti di altre, dipende sempre da noi. O sea, todo depende de si queremos cruzar la puerta. Adesso naturalmente tutti gli ascoltatori che non conoscono questo quadro possono andare su Google, digitare Las Meninas di Velázquez, perché devo dire è un quadro, credo che sia al Prado, vero? Sì, sì, sì. È al Prado, sì, vero, sì, a Madrid. Sì, sì. Infatti lo ricordo abbastanza bene. Sì. Veniamo alla trama proprio della meraviglia degli anni imperfetti. Abbiamo visto che il protagonista è questo ragazzo, Fran, 16 anni, vive con la madre un rapporto conflittuale, il padre è assolutamente assente e vive quasi in simbiosi in realtà con un'altra famiglia, perché lui è come affascinato, innamorato di questo suo amico Edoardo, ma soprattutto è innamorato realmente della sorella di Edoardo, che si chiama Tania. Lui un po' vorrebbe essere loro, vorrebbe vivere in quella famiglia. Claro, es que siempre yo creo que amamos más, ¿no? O nos gusta lo che non tenemos. Beh, sì, è proprio così. Penso che tutti noi un po' tendiamo ad amare particolarmente di più ciò che non abbiamo, a essere particolarmente attratti. Ci piace di più sempre quello che non abbiamo. Ricordo che, almeno questo succedeva sicuramente a me, quando io ero bambina, amavo particolarmente, ero affascinata dalla famiglia che viveva nella casa di fronte alla nostra. Quando per qualche ragione mi rivolgevo a loro e suonavo al loro campanello, ricordo che la mamma mi apriva la porta con queste splendide ciabattine di velluto che per me erano assolutamente affascinanti, anche perché mi avevano detto che il marito gliele aveva portate da Parigi. Io mi dicevo, ma perché io non ho una mamma che porta queste ciabattine così eleganti? Alla fine della storia è sempre l'erba del vicino, no? Che è sempre più verde. Quindi diciamo che è proprio quello che succede a Fran. Quando lui arriva nella casa dei veterinari è come se, passando quella soglia, entrasse in un altro pianeta molto più affascinante. A otro planeta donde hay unas cosas que son más deseables que las que hay en su propia casa. Eh sì, perché insomma i genitori di appunto di Edoardo e Tania, il papà fa il veterinario, insomma, quindi lui è anche affascinato da tutto questo mondo. Dicevamo che Tania è un amore molto virtuale, nel senso che lei non se lo fila per niente, tanto è vero che a un certo punto della storia, lo possiamo anche dire subito, lei sposerà una persona, e qui inizia anche un po' la parte misteriosa del romanzo, perché lei di fatto sposa un boss, diciamo così. Il suo fratello viene coinvolto in alcune attività e Fran si trova a suo malgrado a essere coinvolto un po' nella sparizione di Edoardo. Gli arriva una chiave, lui deve scoprire un mistero. Adesso non sveliamo troppo, naturalmente, però con che spirito Fran affronta quello che sta accadendo e questo mistero, questi misteri che iniziano anche ad attirarlo? Claro, porque Fran vive en un mundo muy cerrado, que físicamente, bueno, luego diré que esta novela está escrita nel lugar de los hechos. Io vivía en un lugar así. Beh, sì, Fran vive in una sorta di mondo chiuso. Poi dirò, spiegherò che il romanzo io l'ho scritto proprio da quello spazio in cui i fatti che io ritraggo nel libro si sono consumati, sono avvenuti. Il luogo chiuso è quello della sua adolescenza. Quindi poco a poco, ad un certo punto, Fran vede come tutti gli altri scappano da questo mondo. Edoardo, che appunto scompare, Tania, che, come hai detto, si sposa. Quindi è un po' come se la vita lo obbligasse, gli desse uno spintone per uscire da questo suo mondo chiuso. Quindi lui alla fine in qualche modo imbocca la porta del quadro de Las Meninas di Velázquez, perché la vita gli offre una chiave, e ovviamente starà a lui decidere se utilizzare questa chiave o no. Posso già dire che lui sì, deciderà di farlo, e con questa chiave potrà entrare in un nuovo mondo. Quindi lascerà la vita, per così dire, contemplativa a favore dell'azione. E questo punto non vorrei rivelare altro, perché insomma il piacere della lettura va lasciato, no? E no decimos más para que se lea la novela. E questa era Clara Sanchez che ci ha parlato di La meraviglia degli anni imperfetti, pubblicato da Garzanti. Breve pausa e poi saremo in compagnia di Antonio Manzini e del suo personaggio seriale Rocco Schiavone. Il cacciatore di libri. C'entrano i Pink Floyd con Antonio Manzini e con il suo personaggio seriale Rocco Schiavone? C'entrano e come? Perché nell'ultimo romanzo in cui è protagonista appunto Rocco Schiavone, che si intitola 7-7-2007, pubblicato come gli altri da Sellerio, viene citato l'album dei Pink Floyd da cui è tratta appunto questa canzone, il famosissimo album The Dark Side of the Moon. Allora, dicevamo, l'ultimo romanzo con Rocco Schiavone protagonista è 7-7-2007, che è una data un po' spartiacque nella vita del vicequestore romano, lo ricordiamo, che è stato trasferito ad Aosta, città che lui non ama proprio per niente. Rocco Schiavone è un poliziotto poco politically correct, è burbero, si fa le canne ogni mattina, usa a volte metodi poco ortodossi nelle indagini, insomma diciamo che ha un suo personale senso di giustizia. E Manzini ce lo descrive perennemente con le sue Clarks inzuppate nella neve di Aosta. L'altra caratteristica è che parla con la moglie morta. Negli ultimi due libri, fra cui appunto 7-7-2007, Manzini ci ha voluto parlare di Rocco Schiavone com'era prima del trasferimento ad Aosta, quindi si trovava ancora a Roma, a Trastevere, la moglie era ancora in vita, fino adesso aveva scritto solo dei racconti sulla vita, diciamo, romana di Rocco Schiavone, invece questo 7-7-2007 è il primo vero romanzo con Schiavone nella fase romana. Dunque c'è un Rocco Schiavone più gioioso, innamorato, con meno spigoli. E si capisce anche come e perché Rocco sia diventato quello che poi è nei romanzi ambientati ad Aosta. Ricordiamo tra l'altro che ci sarà una serie televisiva sulla Rai che partirà in autunno, appunto dedicata a Rocco Schiavone. Quindi sia la raccolta di racconti 5 indagini romane per Rocco Schiavone, sia 7-7-2007, entrambi pubblicati da Sellerio appunto, ci parlano di Schiavone nella fase romana. Ma ogni volta che esce un libro di Manzini, inevitabilmente arriva in vetta alle classifiche. E allora l'abbiamo un po' voluto provocare, insomma. Rocco Schiavone sta insidiando Montalbano? Sentiamo un po' come ci ha risposto Manzini. Non bisogna neanche pensarlo. Già dirlo è una bestemmia, assolutamente no. Devo essere sincero, io sono felicissimo di quello che accade. Inutile, mentirei dirti il contrario. Ma quello è Camilleri, ma che vogliamo dire, su? Non c'è neanche da discutere. È anche molto più grande di te, tu hai tanto tempo per scrivere tanti Rocco Schiavone. Ma secondo me uno così ci nasce, non è una questione di età. Lui c'è nato Camilleri. E tu sei nato Manzini, esatto. Insomma. Allora, parliamo di Rocco Schiavone, perché è un personaggio veramente molto molto amato dai tuoi lettori. Insomma, abbiamo detto, per punizione viene trasferito da Roma ad Aosta, lui detesta il freddo, detesta la neve, detesta stare in quel posto, ma detesta anche i casi. Quando lui fa la lista delle rotture di scatole, mettiamo così, al primo posto c'è l'affrontare un caso. Ma allora che cosa vuole fare nella vita Schiavone? Avrebbe voluto vivere tranquillamente con sua moglie e soprattutto non mettere le mani in quelle cose là. Avrebbe voluto vivere tranquillamente la sua vita, purtroppo è entrato in polizia e non gli piace mettere le mani in quella melma lì, cioè quando c'è un omicidio, quando c'è l'espressione più brutta dell'essere umano, lui ci deve sguazzare dentro, no? È un po' come un medico in un obitorio cui non piace aprire i cadaveri, ma è il suo mestiere. Non lo so cosa gli piacerebbe fare Rocco, gli piacerebbe stare con sua moglie, ma è una cosa irrealizzabile. E lo diciamo che insomma la moglie è morta, lui continua a distanza di tempo a parlare, proprio a vederla come presenza fisica, lei è un po' il suo contraltare, insomma, è la persona che lo fa riflettere, il suo grillo parlante? No, non credo. Credo che più che altro sia è un monologo il suo in realtà, perché lui è vero che parla con la moglie, ma in realtà non parla con la moglie, parla con se stesso. È un ricordo di cui comincia a perdere anche il perimetro, anche le fattezze, non si ricorda più neanche più com'è fatta piano piano, no? Perché sono mai 5 anni che è morta. È il suo amore, è la cosa più bella che ha lasciato, la cosa più tragica che ha lasciato e che non ritroverà mai più. Sostanzialmente Schiavone è un uomo che si trascina, non vive, va avanti per inerzia. Sono depresso fondamentalmente e si trova rifugio in questa vita che non ha più, che aveva una volta e non ha più, e per lui vivere o morire è abbastanza indifferente, insomma una cosa che non lo lascia, non lo spaventa la morte a lui. Schiavone è un uomo anche un po' rude, insomma, sì. non diciamo violento, però insomma non ha peli sulla lingua, è anche un po', ecco, rude, forse la parola più corretta, però anche una grande umanità, perché lui sa capire bene le persone. Come concilia questi due aspetti della sua personalità, apparentemente in contrasto? No, lui è una persona che ha vissuto per strada, il curriculum l'ha fatto lì. A Trastevere non era un figlio di persone povere sostanzialmente, quindi le persone le conosce perché ha imparato a conoscere o per evitarle o per fregarle, quindi è stato sempre uno studio umano il suo, no? Lui ha bisogno di conoscere le persone per salvarsi. Ed è un osservatore, come tutte le persone che sono state dei ladri o dei truffatori, è un grande osservatore, altrimenti perderebbe. E essendo un grande osservatore, anche uno che riesce a capire da uno sguardo, da un atteggiamento del corpo, anche da un odore con chi ha a che fare. Questo poi lo sfrutta nel suo mondo poliziesco, diciamo così, nel suo lavoro. Rocco Schiavone è anche un uomo pieno di difetti, insomma, di debolezze, lo ricordiamo, si fa le canne tutte le mattine, per esempio, insomma, anche nonostante sia un vicequestore spesso scambiato per commissario, lui si arrabbia un pochino su questo, sì, vero? Lui, perché adesso lui è un vicequestore, ma il problema non mi piace essere chiamato commissario, in realtà è un gioco che facciamo insieme a lui, perché lui gli ricorda delle brutture politiche, sai, il commissario ha un'accezione bruttina, per chi è nato come me nel 64 il commissario era anche un'altra cosa, no? E qui, essendo vicequestore, vuole essere chiamato vicequestore, e poi perché detesta il signor, la parola commissà, come commissà. Il commissario è una cosa vecchia, antica, che non esiste più, lui la detesta con tutto se stesso, quindi ci tiene a essere chiamato vicequestore. Ma perché secondo te i lettori amano così tanto Rocco Schiavone? Appunto per le sue debolezze, per le sue fragilità, perché è un po' uno di noi o per che cosa? Questa è una domanda alla quale non ti so rispondere. Beh, te lo sarai fatte delle domande, però sì, se hai continuo... Sì, ho dato delle risposte stupide, quindi vorrei evitare di dartene una, anche se magari te l'ho già data fino adesso, però questa lo so che è stupida. E quindi la saltiamo? Non lo so perché, forse perché... A te perché piace Rocco Schiavone? Perché c'è un sacco di difetti, perché io vorrei un amico come lui, perché è imperfetto da tutti i punti di vista, perché è un uomo debole, un uomo facilmente aggirabile, un uomo con dei principi magari... che somigliano un po' ai principi, a una forma etica più del bandito che del poliziotto, però è un uomo che facilmente puoi fartelo amico oppure il peggior nemico, per cui questa sua ambivalenza è una cosa curiosa, affascinante, non sai mai con chi hai a che fare. Una cosa sostanziale che mi piace di lui è che non gli devi rompere le palle, e quello è forse l'aspetto più divertente e ludico di questo personaggio. Un'ultima domanda: ogni volta che mi capita di chiacchierare con chi scrive polizieschi, noir, gialli, con personaggi seriali, in genere il personaggio seriale è sempre molto tormentato, o beve, o fuma, o insomma sentimentalmente ha una vita sconnessa, sempre così. Perché insomma chi indaga è sempre borderline? Tutti i figli di Chandler. Io penso che dai poliziotti che ho conosciuto non ce n'è raramente, quelli sul campo, non quelli di ufficio del Viminale, quelli sul campo, quelli che fanno la volante, raramente hanno storie tranquille di famiglia. Anzi, spesso quelli che ho conosciuto io sono sempre, ho problemi, bene che vada con i figli, ma grossi. Mogli sempre in rapporti casinati. E poi perché è una molla narrativa molto più forte. Un uomo in pace con se stesso, narrativamente parlando, regge se non un libro, poi dopo il secondo non interessa più a nessuno. Se non hai dei dolori, se non hai delle cose irrisolte, di cosa parli? Adesso le avventure di Rocco Schiavone diventeranno anche una fiction che andrà in onda sulla Rai, una serie TV, insomma. Tu stai partecipando anche alla sceneggiatura delle puntate. E che sensazione ti dà vedere il tuo personaggio poi arrivare così in televisione? Magari tu te l'eri immaginato fisicamente diverso rispetto a chi lo interpreta. Penso che tutti i lettori se lo siano immaginato in un altro modo, per cui... Più che quello che provo, quello di cui ho paura, spero che facciano le cose belle, ma sono convinto che le faranno. Insomma, il regista è Michele Soavi, è bravissimo. L'attore protagonista è Marco Giallini, che è molto bravo. Le sceneggiature abbiamo scritte io e Maurizio Careddo, e spero che siano belle, mi auguro. Per cui spero che i presupposti ci siano. Sono contento, però ho paura, ovviamente. Però Rocco Schiavone sulle pagine dei libri continuerà a esistere. Eh certo, anche perché... Sì, assolutamente, no, cioè, altrimenti io sono un uomo morto, che Sellerio ha dei vendicatori in realtà, oltre all'ufficio stampa ha delle persone che si vendicano degli autori che disobbediscono. Sì, anche perché sei molto amato, appunto, sai come si dice, no? Me lo chiedono i lettori che ci sia no, lui non prende questo, se te lo chiedo io, ti dice però, non è... e manda persone come quelle che tu conosci, insomma, a minacciare fisicamente gli... Certo, fanno molto paura assolutamente i sicari di Sellerio. Sì. Ma Manzini ha già pensato a come finirà il suo Rocco Schiavone o è ancora troppo presto? No, non ci ho pensato. Finché mi diverte scriverlo non ci vorrei pensare. Poi quando, se mai dovesse venirmi a noia, ma non credo perché per adesso mi diverto tanto. Allora mi dovrò far venire un'idea, per adesso non ce l'ho. Questo era Antonio Manzini che ci parlava del suo personaggio seriale, Rocco Schiavone, vicequestore romano trasferito suo malgrado ad Aosta, personaggio amatissimo dai lettori italiani. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che l'appuntamento speciale estivo con i libri è il sabato e la domenica alle 10 del mattino e come sempre il cacciatore di libri il sabato alle 6.30 e alle 22 in replica. Comunque, insomma, se avete perso gli appunti, se avete perso i titoli e volete risentire le puntate, potete sempre andare su radio24.it e cliccare nella sezione Il cacciatore di libri. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.